Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da giugno a dicembre del 1858. Esclusiva del Gazzettino, incontro segreto tra Cavour e Napoleone III. Un bambino ebreo battezzato e strappato alla famiglia dalla polizia pontificia, dure critiche al Papa. Scoperti in una grotta in Germania i resti di un antenato dell'uomo. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura, dunque, come avete sentito dai titoli, tutti i dettagli di un incontro segreto avvenuto tra Napoleone III e il primo ministro piemontese Cavour. La trama tessuta da Cavour è sempre più solida. Sembrava tranciata di netto dall'attentato di Orsini, ma proprio la lettera dell'italiano a Napoleone III prima di salire sul patibolo l'ha rilanciata. Un mese dopo, alla fine di aprile, Cavour ha ricevuto a Torino una proposta da Jacques-Alexandre Bixiou, medico e politico naturalizzato francese, buon amico del conte ma pure del cugino dell'imperatore, il principe Napoleone, che è in cerca di una moglie. Bixiou era l'attore di una proposta francese per un'alleanza contro l'Austria da rafforzare con il matrimonio di Maria Clotilde di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele II di Sardegna, con il principe Napoleone stesso. Cavour ha avuto conferma della cosa inviando Nigra a Parigi, poi è stato direttamente invitato dall'imperatore nelle località termale di Plombières, nei Vosgi francesi. Il primo ministro sardo si è mosso con circospezione, ha fatto credere di andare in Svizzera, informando solo Vittorio Emanuele e il generale La Marmora della sua vera destinazione. La sera del 20 luglio è giunto nei Vosgi francesi per un faccia a faccia segretissimo. Abbiamo saputo in una lettera che Cavour ha scritto già sulla strada di casa Vittorio Emanuele. Per ragioni di sicurezza e di accordi con la fonte che ce l'ha mostrata, possiamo dirvi che il nodo di un casus belli per una guerra franco-piemontese contro l'Austria pare risolto, come pure la sistemazione dell'Italia dopo un'eventuale vittoria. Tre regni, uno al nord, uno al centro e uno al sud, più lo Stato della Chiesa, tutti uniti in una confederazione sul modello tedesco. In cambio la Francia ha chiesto al Piemonte e la Savoia, e qui Cavour ha mostrato disponibilità e Nizza, ma il conte ha opposto il principio nazionale. A suggello di tutto il matrimonio tra il principe Napoleone e Maria Clotilde di Savoia. A distanza di qualche mese, fonti diplomatiche confermano che sia il trattato fra Francia e Italia, sia le nozze, sembrano a buon punto. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. E la ex giornalista inglese Jessie White, molto vicina agli ambienti mazziniani, e lo stesso Giuseppe Mazzini, ha iniziato un ciclo di conferenze molto seguite a New York sulla causa italiana, a quanto sembra dall'entusiasmo che sta suscitando negli ambienti americani, soprattutto in quelli degli immigrati ed esuli italiani negli States, sembra che possa raccogliere una discreta quantità di denaro. Una vicenda avvenuta a Bologna sta sconvolgendo le relazioni tra la Chiesa e il mondo ebraico, e non solo. Un bambino di 6 anni di famiglia ebraica, Edgardo Mortara, mentre era preda di una febbre molto forte, è stato battezzato in segreto dalla sua governante, timorosa che il piccolo finisse nel limbo. Per questo le guardie dello Stato Pontificio lo hanno sottratto ai genitori e portato a Roma, dove viene allevato da una famiglia di ebrei convertiti. Sulla vicenda sono intervenuti in molti e sta salendo l'indignazione internazionale, ma sembra che Pio IX da questo lato non ci voglia sentire. Del resto la legge prevede esattamente questo. La scoperta è avvenuta 2 anni fa, ma l'annuncio ufficiale e la pubblicazione scientifica sono di questi mesi. Nella valle di Neander, in Germania, sono stati ritrovati i resti di un'antica specie di essere umano, forse un nostro antenato, anche se la forma del cranio fa pensare che si tratti di una specie in realtà completamente estinta. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Visitate la nostra pagina Facebook, il nostro blog, scriveteci a gazzettino@radio24.it, scaricate il nostro foglio quotidiano. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.